Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Monterey è una deliziosa cittadina della California, situata a circa 500 km da Los Angeles e 200 km da San Francisco. Si affaccia sull'Oceano Pacifico. È il Presidio Real de San Carlos de Monterey, questo è il suo nome spagnolo per esteso, viene fondata nel 1770 ed è la prima capitale della California e qui viene firmata la prima Costituzione dello Stato. La si potrebbe senza dubbio definire una cittadina di importanza storica. Eppure, se oggi viene ricordata, non è per questo suo passato istituzionale. Il 16, 17 e 18 giugno del 1967, Monterey è il teatro di un evento che cambia per sempre la sua storia e probabilmente anche quella del mondo intero. Love crowd, right? We all love each other, don't we? Otis Redding. You can see Otis Redding, Janis Joplin, the Mamas and Papas, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane, Ravi Shankar and others in National General's Monterey Pop, now playing at the Fine Arts Theater of Beverly Hills. Boss Radio, 93 KHJ. This weekend is the biggest in pop music history. It's the Monterey International Pop Festival. In quei tre giorni memorabili, infatti, in un'arena naturale alle porte della cittadina, si svolge il Festival Internazionale di Musica Pop, noto nel mondo come il Monterey Pop Festival, riconosciuto come l'inizio del movimento hippie, l'apice della famosa Summer Love, l'estate dell'amore che prelude al movimento rivoluzionario mondiale del 68. Voluto e sostenuto da alcuni dei massimi rappresentanti della musica mondiale, come Paul Simon, Mick Jagger, Paul McCartney, il Monterey Pop Festival segna il debutto di alcuni personaggi destinati a diventare delle star mondiali, come Otis Redding, Janis Joplin. Ci saranno 200.000 persone, giovani arrivati da tutto il paese e anche dall'estero, convinti a ragione di poter assistere a qualcosa di unico, a un evento irripetibile, destinato ad essere ricordato nei decenni a venire. Quei 200.000 vogliono far parte della storia, vogliono portarsi dentro per il resto dei propri giorni quel ricordo indelebile, quel tatuaggio sonoro e visivo. E non se ne andranno delusi. Per tre giorni di fila potranno ascoltare una sfilza di loro idoli, compresi The Who, Simon & Garfunkel, The Mamas & Papas, con la loro famosa California Dreaming. Ma ora i 200.000 stanno per assistere a qualcosa di unico, di mai accaduto prima. Sul finire della terza serata, quasi in chiusura del festival, arriva sul palco qualcuno che loro non hanno mai visto. È la prima volta che questo personaggio si esibisce negli Stati Uniti. La sua è una performance che passa alla storia. Si può considerare la più calda di tutta la manifestazione. Non dovete pensare che io sia impazzito. Non credo di aver perso la testa. Anche se la scorsa notte... Wow! Mio Dio! Comunque, questo è il mio modo di suonare. I 200.000 di Monterey stanno assistendo a qualcosa di mai visto prima. Sul palco del Pop Festival è salito un personaggio incredibile che merita una descrizione accurata. È un giovane afroamericano, alto, magrissimo, mani affusolate cariche di anelli, una massa di capelli ricci trattenuti da una bandana legata sulla nuca. Completamente vestito di arancione, porta a tracolla una chitarra Fender Stratocaster indossata da mancino. Avvisa il pubblico: non sono impazzito, io suono proprio così. E inizia una performance che passa alla storia. Questo giovane è alla sua prima esibizione sul suolo americano, pur essendo nato a Seattle e ha iniziato la sua carriera in Inghilterra. E coloro che lo stanno guardando in questo momento hanno tutti la bocca spalancata per lo stupore. Non hanno mai visto nessuno suonare la chitarra in quel modo, sollecitare le sue corde in una maniera inaudita, suonarla dietro la schiena, con l'asta del microfono, addirittura con i denti, mimare con lei un rapporto sessuale. Quel giovane che sta letteralmente stravolgendo il suo pubblico, che lo sta facendo innamorare di sé per sempre, è il protagonista della nostra puntata dei Magnifici Destini di oggi, ed è un nome che non ha bisogno di alcuna presentazione. È semplicemente il mitico Jimi Hendrix. Ben cosciente di quello che significhi per lui un esordio del genere negli Stati Uniti, Jimi Hendrix sta suonando sul palco del Monterey Pop Festival con il suo gruppo, la Jimi Hendrix Experience, composto da Noel Redding al basso e dall'eccentrico batterista Mitch Mitchell. L'eccitazione che si respira nell'aria è fortissima e Jimi sta cercando di dare il massimo come chitarrista, oltre che come cantante e showman. Ma è convinto di dover compiere un gesto straordinario, qualcosa che lo faccia ricordare per sempre. Ed è così che sul finire di Wild Thing prende una decisione per molti versi drammatica. La sua Stratocaster è come un agnello sacrificale e va immolata sull'altare dell'arte. Jimi afferra una boccetta contenente benzina per accendini, la versa sulla chitarra, la bacia e poi le dà fuoco. Mentre la Stratocaster brucia, la afferra per il manico e la distrugge in mille pezzi, sbattendola violentemente sul pavimento e contro gli amplificatori, e poi getta i pezzi al pubblico in delirio. I pezzi della Fender Stratocaster bruciata da Jimi Hendrix il 18 giugno 1967 sul palco del Monterey Pop Festival sono oggi conservati all'Experience Music Project and Science Fiction Museum di Seattle, dove si possono ammirare altri cimeli della storia del rock. Qualcuno quella sera ha la prontezza di spirito di raccoglierli, di farseli restituire dal pubblico che vorrebbe portarsi a casa un ricordo di quella serata indimenticabile. E oggi sono lì, in bella mostra, a ricordare a tutti coloro che hanno la fortuna di visitare il museo quello che accadde in una notte magica di inizio estate del lontano 1967. Il fatto che i resti di una chitarra bruciata non vengano buttati nella spazzatura, ma siano conservati gelosamente in un museo dedicato alla storia della musica mondiale, significa qualcosa. Essi non rappresentano il gesto di un folle, ma il frutto di una sperimentazione portata alle estreme conseguenze. Sono la prova evidente di una genialità che fa di Jimi Hendrix una delle figure basilari della musica contemporanea. E sono anche i resti di un percorso doloroso. Per Jimi Hendrix non deve essere stato semplice appiccare il fuoco alla sua chitarra, lui che da bambino e da adolescente l'ha desiderata con tutto se stesso, ma non ha mai potuto permettersela. Mia nonna Nora mi raccontava delle stupende storie degli indiani d'America. Lei era di origini Cherokee. Ma era tutto quello che poteva darmi perché non avevamo proprio niente. Eravamo poverissimi. Però con lei mi sono divertito molto. Jimi fin da piccolino è spesso parcheggiato da sua nonna. La madre ha solo 17 anni quando lui viene al mondo nel 1942. E più che badare al figlioletto ha voglia di divertirsi, andare a bere e a ballare. Suo padre è un militare ed è praticamente sempre al fronte. Sono poverissimi, non hanno un soldo in tasca e continuano a non averne anche quando, una volta congedato a guerra finita nel 45, il padre torna a casa. A Jimi piacciono i fumetti e la fantascienza, ma più di ogni altra cosa adora la musica. Suo padre è stato un ballerino semiprofessionista e ha una bella collezione di dischi. Jimi li ascolta spesso insieme a lui, ma anche gli inni sacri che sente in chiesa gli piacciono tanto. Quello per cui impazzisce però è la chitarra. J crazy man. My husband just now left. Just now left. Oh yeah. Oh yeah. Peccato che gli Hendrix una chitarra proprio non se la possano permettere. Jimmy allora ruba la scopa di saggina di sua nonna, la imbraccia e sogna di suonare su un grande palco davanti a milioni di persone. E qualche anno più tardi, sempre con quella stessa scopa, costruisce il suo primo rudimentale strumento, il cosiddetto filo sul muro, già sperimentato da tanti bluesmen poveri all'inizio della loro passione. Sfila la corda metallica che tiene insieme i pezzi di paglia della scopa e la fissa al muro con dei sostegni che la tengono sollevata. Poi la suona con una bottiglia e la pizzica con le dita. Ma la prima vera chitarra che Jimmy riesce a tenere tra le mani, quella che per prima gli dà quel brivido che non lo abbandonerà mai più, è di un amico di suo padre che spesso viene a fare una partita a carte a casa loro. I due uomini stanno giocando e quando sono ben concentrati sulle rispettive carte ecco che Jimmy ne approfitta per provare a suonare un po'. E poco importa se lui è mancino e si ritrova tutte le corde capovolte, la sua passione è più forte di qualsiasi difficoltà. Come ricorda suo fratello minore, Leon. Alla fine mio padre gli comprò quella chitarra. La pagò $5 al suo amico. Jimmy si addormentava suonandola la sera e si svegliava al mattino suonandola ancora. Viveva attaccato a quella chitarra. Se l'era tutta risistemata perché, essendo mancino, aveva dovuto invertire le corde. La forma della chitarra era al contrario. Ma lui si abituò così. Tanto che anche quando divenne una star, e di certo poteva permettersi le chitarre per mancini, in realtà ne comprò pochissime. Per il resto si divertiva a prepararsele da solo. Se le dipingeva anche, gli cambiava colore. Instaurava con loro un rapporto speciale perché per lui la chitarra era come una persona. Jimmy ha solo 16 anni, ma già viene fuori la sua determinazione. La chitarra è la sua vita e lui vuole imparare a suonarla come nessun altro sa fare. Vuole essere il migliore. Per questo si esercita in continuazione, praticamente non la molla mai. Sente nel profondo che quello strumento rappresenta la sua salvezza, qualunque prova possa capitargli nella vita. E gliene capitano. Prima muore sua madre, anche se non è mai stata una mamma nel senso più tradizionale del termine. E a lui piace, perché è divertente, le vuole bene. Sarà per esorcizzare questa perdita che si lega ad alcuni ragazzi poco raccomandabili, teppistelli da 4 soldi che fanno piccoli furti. E quando i poliziotti lo beccano alla guida di un'auto rubata, Jimmy si ritrova in galera. Ora gli stanno dicendo che deve scegliere tra la reclusione e il servizio militare. Jimmy ha la sensazione netta che tra le due cose non ci sia poi tanta differenza. Lui è uno spirito libero, ma poi gli dicono che nel caso scelga di servire la patria, andrebbe a far parte della 101esima divisione aviotrasportata. Wow! Paracadutisti, il suo mito, quelli il cui simbolo è la straordinaria Screaming Eagle, l'aquila urlante. Fare il paracadutista non era una cosa semplice. Fisicamente era molto, molto impegnativo. Dovevi allenarti duramente. Ma avere la Screaming Eagle era stato sempre il mio sogno. E mi piaceva tanto. Siamo a Fort Campbell, nel Kentucky, una delle strutture dell'esercito degli Stati Uniti più prestigiosa. La base ospita la 101esima divisione aviotrasportata e il 160esimo reggimento operazioni speciali per l'aviazione. Il soldato James Marshall Hendrix vi giunge l'8 novembre 1961 e dopo poche settimane appare chiaro a tutti che non è sicuramente il migliore del suo corso. Per lui la vita militare non è affatto attraente, troppe regole, troppi orari, troppi ordini, ma volare, volare sì che fa per lui. Se lo ricorderà qualche anno dopo quando scrive una delle sue canzoni più belle. Little Wing. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Quando non vola, o per meglio dire cade, essendo un paracadutista, Jimmy cerca di sfuggire più che può alla rigida disciplina militare. Si rifugia sempre nell'area destinata alla ricreazione dei soldati, vicino al bar. Quando può, tutte le volte che può, suona la sua amata chitarra. Quando è con lei, si dimentica tutto. Ed è proprio in uno di questi momenti di felicità pura che qualcuno sta passando casualmente di lì. Sentì un suono assolutamente incredibile venire fuori dal locale ricreazione. Fu qualcosa di talmente attraente che mi sentii praticamente spinto, malgrado la mia volontà, verso di lui e capii all'istante che quel suono era destinato a qualcosa di grandioso. Billy Cox suona il basso da molti anni, benché sia solo un ventenne. Se ne intende parecchio di musica e quel suono che ha appena sentito, beh, è qualcosa di straordinario. È come se per un attimo vedesse avanti nel tempo. Billy ha la certezza che quel ragazzo suoni come nessun altro al mondo e che un giorno tutto il mondo lo saprà. E glielo dice. Va da lui e così semplicemente si presenta e gli dice quello che pensa. Eccoli, in quel locale ricreativo di Fort Campbell in Kentucky. Jimi Hendrix e Billy Cox, entrambi in divisa, con i capelli quasi rasati a zero, ma con una ferma convinzione che il destino, un magnifico destino, li stia facendo incontrare per un motivo molto importante. Non appena congedati, nel settembre del 1962, Jimi Hendrix e Billy Cox formano una band, i King Casuals. Con questa formazione entrano nel cosiddetto Chitlin Circuit, un insieme di locali sparsi in tutti gli Stati Uniti e ne fanno parte i famosi Cotton Club, dove i musicisti afroamericani sono liberi di esibirsi nonostante la segregazione razziale. È Billy l'anima del gruppo, è lui che si interessa per organizzare le serate e gestire gli spostamenti. Jimmy è decisamente poco portato per tutto questo e poi ha anche un altro grosso problema che forse non supererà mai del tutto. È terribilmente timido. Per me all'inizio fu difficilissimo. Ero terrorizzato. Non avevo il coraggio di salire sul palco. Avevo imparato un po' di canzoni, ma avrei tanto voluto suonare sta dove ne nascosto dietro il sipario. I magnifici destini. Una chitarra elettrica parlante, suonata con una tale maestria e con una tecnica talmente innovativa da vedere il proprio vocabolario espandersi oltre il possibile. Questo è lo strumento con il quale si esprime la forza, la sensibilità e la passione del più grande sperimentatore di tutti i tempi, il nostro protagonista di oggi, il leggendario Jimi Hendrix. Nuove sonorità mai ascoltate prima escono dalla sua chitarra suonata al contrario perché è mancino, quasi che il capovolgerla gli permetta di vederla sotto una luce diversa da tutti gli altri. Forse perché la sua prima chitarra vera la riceve nello stesso periodo in cui muore sua madre e lui trasferisce su quelle corde tutti i suoi sentimenti e tutta la sua voglia di essere amato. Ma la sua sperimentazione non conosce limiti. Amplificazioni e distorsioni trasformano il suono in un uragano capace di spazzare via tutto quello che c'era prima. Eppure, un mito come lui, che paralizza chiunque lo senta suonare per la sua bravura e capacità innovativa, è forse una delle persone più umili e insicure di tutto lo Star System. Mi sentivo così poco certo delle mie capacità, specialmente quando dovevo suonare con altri chitarristi. Agli inizi della mia carriera suonavo come supporter per tante band, e ogni volta il chitarrista mi sembrava mille volte più bravo di me. Poi ogni volta mi dicevo, dai! Ma se ti cercano, se ti fanno suonare, vuol dire che gli piaci. Tu vai avanti, cerca di farcela. Eh sì, Jimmy cerca proprio di farcela. Grazie al suo fortunato incontro con Billy Cox e con il gruppo che i due amici fondano insieme, i King Casuals, il giovanissimo chitarrista gira tutto il paese e fa una grande esperienza, perdendo un po' di quel timore che ha per i palcoscenici. Ma il suo modo di suonare così anticonformista, fuori dagli schemi, non può passare inosservato. E spesso, invece di risultare un semplice supporter, con il suo stile attira le attenzioni del pubblico, che tende a vederlo come star della serata. Ho incontrato Jimi per la prima volta ad Atlanta, in Georgia. A dir la verità, a quel tempo non si chiamava Jimi Hendrix, ma Morris James. Quando era sul palco, prendeva possesso dello spettacolo. La gente gridava e io pensavo che gridassero per me, ma invece gridavano per lui. Allora io dicevo, cavoli, ma toglietegli le luci di dosso, lasciatelo nell'ombra. Le luci, puntatele tutte su di me, no? Accidenti, era impressionante. Suonava la chitarra coi denti. Colui che sta parlando è un mito della musica rhythm and blues, uno dei suoi massimi esponenti che in quegli anni sta spopolando con una canzone tra le più famose al mondo. Lui è Little Richard e la canzone è Tutti i frutti. Little Richard è un personaggio incredibile. Il suo successo è stellare e avere la possibilità di suonare con lui è quello che qualsiasi musicista dell'epoca sogna ad occhi aperti. Soprattutto un giovane come Jimmy. A parte le battute, Little Richard rimane impressionato, come tutti, dall'incredibile stile innovativo di Jimmy e non se lo lascia di certo scappare, diventando un magnifico destino per il giovane chitarrista. Jimi Hendrix inizia immediatamente a suonare con gli Upsetters, la band di Little Richard. Finalmente è nel giro giusto, quello dei grandi nomi, dei concerti importanti. Anche se in maniera non proprio continuativa, perché collabora anche con altre band, Jimi Hendrix continua a suonare e ad esibirsi con Little Richard almeno fino alla metà del 1965. Ma non è proprio soddisfatto. Mentre si trova sul palco, mentre suona in quella sua maniera inconfondibile, sta riflettendo. Deve cambiare qualcosa. Non è lui la star dello show. Ha imparato molto in questi anni. Oramai si sente pronto a iniziare la sua carriera solista. Ma la maggior parte delle band per le quali suonavo non mi permetteva di fare quello che volevo. Vale a dire usare la chitarra con le distorsioni, suonarla alla mia maniera, dietro la schiena, con i denti. Tutte quelle cose che avevo imparato a fare per conto mio e che loro giudicavano troppo strane, forse anche troppo da star. E allora iniziai a pensare di farmi un mio gruppo, cantare e soprattutto diventare io il leader. La paura del palcoscenico ce l'avevo ancora, ma era più forte la voglia di fare le mie cose. Jimmy lascia Little Richard, si trasferisce a New York, al Village, dove l'atmosfera è più calda, dove i locali sono più aperti alle novità. Jimmy James and the Blue Flames, così si chiamerà il suo nuovo gruppo. Jimi Hendrix stavolta è davvero felice, anche se non ha un soldo in tasca. Ha la sensazione che può farcela da solo, senza doversi sempre tirare indietro. Può dare sfogo a tutte le sue conoscenze e finalmente può fare della chitarra quello che vuole. Non è follia la sua, è studio severo, applicazione costante, ricerca del diverso, dell'insolito, voglia di superare i propri limiti. La fissazione maniacale che ha nei confronti del suo strumento, la dedizione con la quale utilizza chitarre da destro, modificando l'accordatura, spostando la tracolla e suonando con tutta la strumentazione al contrario, questo sì che gli dà la sensazione di essere davvero l'artefice del proprio destino. Quella chitarra che lui si dipinge perfino del colore che in quel momento gli piace di più o più lo ispira, quella chitarra combinata così è solo sua. E ora la sta suonando al Café Wah sulla McDougall Street al Greenwich Village. È il 5 luglio 1966 e tra il pubblico siede qualcuno destinato a cambiare per sempre la sua vita. La prima volta che lo sentii suonare pensai immediatamente che fosse il miglior chitarrista che avessi mai sentito. Si esibiva in uno di quei caffè del Greenwich Village e la canzone che stava cantando era Hey Joe. Aveva semplicemente tutto. Era tutto e ho pensato... È ridicolo che sia qui e non abbia qualche contratto. Io non posso assolutamente perderlo. Chess Chandler è a una svolta della sua vita. Vuole fare il salto di carriera, diventare produttore e manager. Fino a quel momento è stato bassista in un gruppo con il quale sta chiudendo la sua collaborazione. Il loro nome è piuttosto noto, sono The Animals, e hanno scalato le classifiche con una canzone bellissima, House of the Rising Sun. There is a house in you. Thank you. Chas Chandler si convince all'istante che Jimi Hendrix sia un genio destinato a un grandissimo avvenire e decide che farà di tutto per diventare il suo manager. Non appena termina la sua esibizione, si presenta di fronte al giovane chitarrista e gli spiega quello che pensa di lui, ma soprattutto quale futuro gli si prospetta davanti. Vuole portarlo in Inghilterra, nella patria della nuova musica, la Swing in London. Lì lo condurrà al successo, lo trasformerà in una star. Jimmy sta guardando quel giovane di fronte a lui. Gli parla di strane cose, gli dice che vuole diventare il suo agente, che deve immediatamente firmare un contratto con lui. Sinceramente non sa cosa pensare, forse anche un po' distratto. Ma a un certo punto una parola attira la sua attenzione e lo convince. La parola è Londra. Se quel giovane lo porta a Londra, beh, lui firma tutto quello che vuole, perché a Londra c'è il suo mito. A Londra c'è Eric Clapton. Stavo iniziando a suonare con il mio gruppo, i Cream, quando arrivò Chas Chandler con questo ragazzo nero, un tipo che colpiva molto, per come era, per come parlava e si comportava. Era molto timido, terribilmente timido, ma al tempo stesso era come conscio di sé. Aveva portato la sua chitarra. Era mancino, ma la chitarra era da destro ed era tutta sottosopra. Era una cosa strabiliante quella chitarra. Suonò un pezzo. Fece alcuni dei suoi numeri, suonò dietro la schiena e poi anche coi denti, ma non erano stranezze quelle che faceva. Era proprio la sua tecnica. Beh, fece solo un pezzo e la mia vita non fu mai più la stessa. Jimi Hendrix ha appena suonato davanti al suo mito, Eric Clapton. Per lui non esiste un personaggio più in alto, è la meta da raggiungere, il chitarrista per eccellenza. Non sa che Clapton sta pensando di lui esattamente la stessa cosa, convinto che non esista al mondo un chitarrista così dotato di talento, così all'avanguardia nella tecnica e così innovativo come Jimi Hendrix. Chas Chandler ha fatto centro, ed è sicuramente un magnifico destino nella vita di Jimi Hendrix. È lui che con pochissime audizioni trova Noel Redding e Mitch Mitchell, con i quali crea la formazione destinata a stravolgere in pochi giorni l'ambiente musicale londinese. La Jimi Hendrix Experience. Il trio si affaccia timidamente nel salotto buono della musica dell'epoca, nello stile di Jimmy, fatto di capacità, di tecnica, rigore, ma carico di senso artistico, di sensualità. Le visionarie bordate sonore di Hendrix invadono l'Europa. Il suo singolo di lancio, Hey Joe, cover di una canzone di Billy Roberts, ha un successo grandioso e l'album di esordio, Are You Experienced, si posiziona immediatamente al secondo posto delle classifiche del Regno Unito, dietro solo al mitico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, ed è tuttora considerato dalla critica il miglior album di debutto della storia del rock. Ci troviamo a Bethel, piccola cittadina rurale dello stato di New York, dove dal 15 al 18 agosto 1969, all'apice della diffusione della cultura hippie, viene organizzata la 3 giorni di Peace, Love and Music, il famosissimo storico concerto di Woodstock. L'uomo che sta suonando in questo momento l'inno americano, The Star Spangled Banner, è un mito vivente. Il suo modo di suonare la chitarra è inconfondibile e benché si sia affacciato sulla scena internazionale della musica da pochissimo, è considerato da tutti una star indiscussa, un innovatore. È lui il protagonista della nostra puntata dei Magnifici Destini di oggi. Il suo nome è Jimi Hendrix. Sono passati solo 2 anni dal mitico Monterey Pop Festival, dove Jimi Hendrix si presenta per la prima volta al pubblico americano dopo aver conquistato il mercato britannico. Il successo in patria, lui è di Seattle, significa la consacrazione del suo mito, grazie anche alla sua incredibile performance, al termine della quale sacrifica la sua chitarra Fender Stratocaster, bruciandola sul palco davanti a una folla in delirio. Oramai Jimmy è un idolo e ogni sua apparizione viene attesa. Il pubblico impazzisce per lui, per il suo stile unico, per la follia con cui suona, nelle maniere più assurde. I protagonisti della scena musicale internazionale, però, i tecnici e gli esperti di musica, capiscono immediatamente che si trovano di fronte a un genio, a un grandissimo professionista, uno che all'apparenza fa cose da folle, ma in realtà ha alle spalle una preparazione profondissima. Il suo manager, Chess Chandler, sottolinea la determinazione e la ferrea disciplina alla quale si sottopone Jimmy, che tutto sommato è ancora un ragazzo, ha solo 26 anni. Si svegliava al mattino e arrivava a fare colazione con la chitarra tracolla. Studiava tutto il giorno, specialmente quando poi la sera aveva un concerto. Alcune volte non inseriva nemmeno la corrente. Suonava così, solo per il gusto di suonare. Gli piaceva sentire il suono nell'aria, come... Comunque, era sempre con la chitarra addosso. Sempre tutto il tempo con la chitarra addosso. Era il miglior chitarrista del mondo, perché lui voleva esserlo. E si preparava e studiava sempre per esserlo. Dopo l'album di esordio Are You Experienced, Jimmy esce con il seguito discografico dal titolo Axes, Bold as Love. In questo secondo album prosegue la sua ricerca sonora, spingendosi verso risultati assolutamente innovativi. Jimmy sta sperimentando in particolare qualcosa di mai fatto. Diminuisce l'accordatura della chitarra di mezzo tono. Nessuno suona così, e lui, che vuole essere diverso da tutti, trova questo espediente tecnico che determina l'unicità delle sue performance. La grande determinazione di Jimi Hendrix, la sua disciplina ferrea quando si tratta di chitarra e di musica, fanno da contraltare però a una vita sempre più stravagante, sopra le righe, caratterizzata da un uso sempre più eccessivo di alcol e droghe. Il suo rapporto con i collaboratori si fa via via più difficile. Non tutti sopportano le sue sessioni di registrazione interminabili, il suo vivere in simbiosi totale con la musica e il lavoro, la sua pretesa che anche gli altri siano così dediti alla propria passione quanto lui. Il grande Eric Clapton ha una sua spiegazione. Beh, penso che sia il percorso del genio. Sei solo, nessuno ti può capire, nessuno può arrivare alle profondità che tu raggiungi quando vai dentro te stesso. Non puoi portare nessuno con te in quei posti. È una cosa che devi fare da solo ed è un'esperienza molto solitaria. Non è qualcosa che scegli, la erediti insieme al tuo dono. È così, quando sei grande come era grande Jimmy. Questo suo modo di essere porta Jimi Hendrix a una rottura prima con Chess Chandler e poi con la sua band. Il suo album successivo, Electric Ladyland, lo vede collaborare con personaggi diversi come Stevie Winwood dei Traffic o Jack Sadi dei Jefferson Airplane. Jimmy sta riflettendo sul suo futuro. Per lui non c'è altro al mondo che la sua chitarra. E se le persone che lavorano con lui non lo capiscono, se non sono disposte a turni devastanti di registrazione pur di ottenere il massimo, beh, lui pensa che ognuno debba andare per la sua strada. È a questo punto che gli torna in mente il suo caro amico degli esordi, Billy Cox, colui che lo aveva spinto a iniziare la sua carriera. Con lui Jimmy crea il gruppo Gypsy Sun and Rainbows, che poi diventa Band of Gypsies, con il quale suona al mitico palco di Woodstock. Ma c'è poco da fare. La strada di Jimmy è segnata e lo porta su una china sempre più tormentata, al fondo della quale c'è l'autodistruzione. Alcol a fiumi, antidepressivi, droghe pesanti fino all'eroina, all'LSD, diventano i suoi compagni di vita e la sua chitarra questa volta non lo può salvare. Il popolare cantante rock Jimi Hendrix è morto oggi. Secondo le fonti della polizia, la causa è un overdose di droghe. È il 18 settembre 1970. Jimmy viene trovato morto nel suo appartamento di Londra, soffocato nel suo vomito dopo un cocktail di alcol e tranquillanti. Muore così, inaspettatamente, il più grande chitarrista di tutti i tempi, colui che rivoluziona i canoni alla base della chitarra elettrica moderna, che utilizza in maniera creativa la distorsione, il feedback, il pedale wah-wah. Uno sperimentatore per eccellenza, uno studioso maniacale della chitarra e delle sue potenzialità infinite. L'ultima sua grande esibizione avviene solo 18 giorni prima della sua morte, il 31 agosto 1970, in occasione del Festival dell'Isola di Wight. Un ultimo regalo e una grande eredità da parte dell'indimenticabile Jimmy.